A una poca di grazia, una poca di grazia, tanto si arriva e arriva, hey! Arriva e arriva e arriva, a ora di sere, a ora di sere, everybody now, bam, bam, bam, bam, let me hear you, bam, bam, bam, bam, beautiful, bam, bam, bam, bam. El inocente porque tengo muchacho, porque tengo muchacho y aquí se hace arriba y arriba, hey, arriba y arriba y arribere, a bora dicere, bora dicere, ocha quedará, bam, bam, bam, bam, bam.